quando rappo sono un drago, sputo fuoco, brucio il micro, incendio doloso, sono serio mica gioco, sono sempre in fuori gioco, muoio dentro e fuori gioco, il mio flow è doloroso. Questi finti rapper, tutti falliti, blackout, si spegne il PC, tutti spariti, oh raga, dove siete finiti? Forse è cambiata la moda e voi avete cambiato miti. Io scalo le mie fette tipo Dolomiti, resto sempre su imponente tipo i monoliti. Tu sei impotente, del flow non siete pratici, i vostri volti sono pallidi, scoloriti. Ne hai sentito uno? Beh allora li hai sentiti tutti, questi qua se vincono è solo coi trucchi. Ah, stronzi, è meglio se vi ritirate, per voi il biglietto è solo andata, è meglio se lo vittimate. Fai fatica a starmi dietro, sto troppo avanti, troppo avanti, fra, troppo avanti. A superarmi ci ha provato in tanti, han fallito tutti quanti, tutti quanti. Cosa? Tutti quanti. Fai fatica a starmi dietro, non ti vedo manco più, manco più, manco più. Che mi raggiungi bro, non ci credi manco tu, manco tu, manco tu. Quando scrivo lascio il segno come un tatuatore, combatto tutti i giorni come un gladiatore, riempio il radiatore, accendo il motore, ho sempre la risposta giusta come un correttore. Con il rap sono un cecchino, frate, miro bene, non giocare con il rap ti conviene. La mia passione è rimare, ascolta ciò che ti pare, fate ciò che vi pare, basta che non mi rompete. Ti vedi in giro che ti credi mitico, sei un caso critico, anzi dopo questo pezzo sarei un caso clinico. Dici di sentire la tua roba perché è proprio bella, il problema è che il tuo rap m'annoia, fiorella. A chi parla male stai sicuro spara pista, faccio tirare sulle mani come un terrorista. Sto con chi dopo un errore subito rimedia, ascolta me che quando rimo son divino come la commedia. Fai fatica a starmi dietro, sto troppo avanti, troppo avanti, fra, troppo avanti. A superarmi ci ha provato in tanti, han fallito tutti quanti, tutti quanti. Cosa? Tutti quanti. Fai fatica a starmi dietro, non ti vedo manco più, manco più, manco più. Che mi raggiungi bro, non ci credi manco tu, manco tu, manco tu. Troppo avanti fra, troppo avanti. Cosa? Troppo avanti fra, troppo avanti. Troppo avanti.